Carlo, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Bush agli americani, non ci sono alternative, o il mio piano o la recessione. Ora Veltroni dovrà correre a dare una mano anche lì. Il vignettista di Staino sul quotidiano L'Unità insinua una sottile ironia su Walter Veltroni e il ruolo che ha avuto nel salvataggio dell'Alitalia. Negli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. Sì, L'Unità affida a Staino la battuta sottile, però esulta anch'essa per l'Alitalia che è salva, accordo fatto, novità su esuberi e precari. Veltroni, battuto il bullismo di governo. Colaninno, vi racconto la lunga notte che ha portato alla svolta. Ecco, sì, abbiamo iniziato con L'Unità anche perché il quotidiano parla, mi pare l'unico, con Roberto Colaninno, il presidente della CAI, la società che sta rilevando all'Italia e che diventerà azionista di riferimento, azionista di maggioranza della compagnia di bandiera. E Rinaldo Gianola, il vice direttore dell'Unità, che è riuscito a strappare a Roberto Colaninno qualche battuta di ricostruzione degli avvenimenti delle ultime settimane. Dice Colaninno all'Unità: è un bel passo in avanti, lo so che la politica continua a litigare, ma dovrebbe essere felice in questo momento, tutti hanno dato una mano per risolvere una crisi drammatica. Roberto Colaninno, presidente della CAI, mangia un biscotto al volo prima di incontrare i rappresentanti della Lufthansa, comunicare a Bruxelles la svolta di Palazzo Chigi, attendere le decisioni dell'ENAC, parlare con Fantozzi. E ancora dice Colaninno nella sua conversazione con Rinaldo Gianola sull'Unità: soddisfatto? Certo che sono soddisfatto, abbiamo fatto un grande balzo in avanti, pochi giorni fa c'erano solo macerie e adesso vediamo la luce in fondo al tunnel. Dice ancora Roberto Colaninno a pagina 2 dell'Unità: mi piace pensare in questo momento che al salvataggio dell'Alitalia abbiano concorso il governo, l'opposizione, i sindacati e le imprese italiane che stanno mostrando un grande coraggio a prendersi sulle spalle questa azienda. Ecco, questo dice il numero uno della CAI, la società che si diciamo che ha che poi rappresenta una serie di imprenditori che diventeranno appunto stanno per diventare, se l'accordo si farà davvero, azionisti di maggioranza di Alitalia. Adesso che persino la CGIL ha firmato, che succede? Chiede Rinaldo Gianola. Cosa deve succedere? Bisogna lavorare sodo, ci vogliono anni per conquistare il pareggio. Ragazzi, non è che stiamo trattando un gioiello, non c'è dubbio, tuttavia, che la firma dei sindacati confederali dell'UGL, l'accettazione del piano CAI sia per Colaninno un incoraggiamento ad accelerare. Se siamo arrivati a un accordo, dice ancora Colaninno, il merito è di Gianni Letta, che non ha mai mollato, ha fatto un lavoro straordinario, riconosce. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si racconta anche negli ambienti sindacali e del PD, si è speso in un'opera di tessitore di una trama che perdeva pezzi a tutte le parti, fino a una ricomposizione finale che ha prodotto un risultato insperato solo pochi giorni fa. E gli altri, CGIL, CISL e UIL, CISL, UIL e UGL, sono stati molto coraggiosi e hanno avuto ragione, si sono tirati dietro anche la CGIL. L'invito di Veltroni mi ha fatto piacere, così come non mi è mai mancato l'incoraggiamento di Berlusconi, che ha sempre creduto al successo della proposta italiana. Ecco, questa, vi dicevo, dunque, la conversazione di Roberto Colaninno con L'Unità, che titola appunto Alitalia è salva. L'Unità mette anche in prima pagina le orfane del mare di Malta, Giovanni Maria Bellu, di Destiny e Victoria, come le hanno battezzati i medici maltesi, non si conosce l'età. Secondo suor Stefania Caruana, la orsolina che si è presa cura di loro nell'orfanotrofio di Sliema, Destini ha circa 2 anni e Victoria 6 mesi, ma è solo un'ipotesi, una stima, d'altra parte non si sa nemmeno, benché alcuni indizi lo rendono probabile, se siano sorelle, né in quale paese siano venute al mondo. Davvero una cosa tenerissima, diciamo, questa foto di queste due bimbe che sono sopravvissute, appunto, orfane del mare di Malta. Adesso il Corriere della Sera, il vice direttore Dario Di Vico, anche in questo caso, diciamo, abbiamo una lettura positiva, una lettura in avanti, diciamo, potremmo dire bipartisan, insomma, della vicenda all'Italia, sì, della CGIL, attesa per i piloti, ma scrive Dario Di Vico, la buona politica, non facciamoci fuorviare dalle polemiche di giornata, dai fuochi d'artificio ad uso e consumo dei talk show, dalla irrefrenabile corsa ad auto intestarsi la vittoria. La verità è che si è usciti da ali caos, il merito è anche della buona politica, è la dimostrazione che quando si abbandona l'infausto metodo del dialogo sotto traccia, delle trattative opache, e si percorre la strada maestra del confronto diretto tra governo e opposizione, le cose alla fine accadono, misurandosi a cielo aperto le soluzioni si avvicinano e non si allontanano, e la politica in qualche misura si rimette in sintonia, anche se per un solo momento e per di più in zona Cesarini, con il paese reale. E questo dice, quindi, come dire, premiata la politica dell'accordo. Ma proprio perché almeno stavolta la politica ha assolto i suoi compiti alti, bisogna tenere a mente che l'arrivo di Colaninno e C sulla plancia di comando della compagnia non è un salvataggio qualsiasi, è una privatizzazione. La differenza non è da poco. Dovrà cambiare il DNA dell'azienda, dovranno essere ridisegnati ruoli e prerogative. Questo dice Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera pubblica anche un'intervista a Confalonieri, il numero uno di Mediaset, oltre che grande amico e conoscitore di Silvio Berlusconi. Grande lavoro di Letta, ma bravo anche Walter, inteso come Walter Veltroni. Ed è a pagina 5 questa conversazione con Fedele Confalonieri. Gianni Letta, intendo. Su Alitalia ha fatto un grandissimo lavoro, poi in un paese in cui tutti salgono sul carro del vincitore, riconosciamo comunque a Walter Veltroni di aver contribuito a risolvere il problema. Così Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, l'uomo che forse conosce meglio Silvio Berlusconi, si esprime su un'intervista, una conversazione fatta con Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Dice Fedele Confalonieri in questa intervista: in questi giorni ho letto sul Financial Times il tentativo di paragonare la vicenda della nostra compagnia di bandiera a quella dei minatori inglesi all'epoca del governo di Margaret Thatcher. A parte il fatto che Berlusconi non è la Thatcher, per fortuna in Italia abbiamo evitato di vivere una storia drammatica come quella. Se è possibile fare un accostamento con quegli avvenimenti, allora spero che per il nostro paese il caso all'Italia sia il momento della ripartenza. E sì, dice, e poi ancora su Berlusconi, in fondo spiega con Falonieri, Berlusconi è un imprenditore, usa il linguaggio dell'imprenditore, non si attarda sulle colorazioni politiche, pensa c'è un problema da risolvere, troviamo una soluzione, il resto non conta. E ancora, Berlusconi è Berlusconi, un premier che vuol fare dell'Italia un paese normale, per usare un'espressione coniata da altri, la gente l'ha capito e lo sta premiando, ma non è tempo di specchiarsi nei sondaggi, il governo deve dare ora ai cittadini un po' di soldi. E qui è l'ultima parte, diciamo, della conversazione, che è relativa a un tema caro a molti italiani. Pensi lui come fare, ma trovi il modo, perché non sarà il problema della terza o della quarta settimana, ma è chiaro che gli italiani faticano ad arrivare a fine mese. Bisogna aiutarli, e a volte non servono grandi riforme o un'eccessiva produzione di leggi. Penso al ministro dell'istruzione, a Maria Stella Gelmini, alla reintroduzione del grembiule e del set in condotta nelle scuole. penso a un paese normale. Questo Fedele Confalonieri sul Corriere della Sera, Corriere della Sera che in prima pagina pubblica una vignetta altrettanto divertente come quella di Stein sull'Unità, su Alitalia. Giannelli disegna un mago Berlusconi che fa andare via Air France, e poi un mago Berlusconi perplesso perché Air France, che è uscita da una finestra, rientra da un'altra finestra, Roma-Parigi, andata e ritorno. E ancora sul Corriere della Sera Vittorio Grevi che polemizza con la proposta di Niccolò Ghedini, avvocato di Berlusconi, a proposito di intercettazioni preventive, una mossa ad alto rischio. Questo è il titolo del commento di Vittorio Grevi. Se noi ci trasferiamo, diciamo, sul quotidiano La Repubblica, troviamo intanto un retroscena ancora su Gianni Letta, a cui da tutti è riconosciuto un ruolo decisivo nella vicenda Alitalia. Allora chiedo un atto di fiducia verso il governo e verso l'azienda. Per una volta Gianni Letta, l'impassibile sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha alzato la voce di fronte all'insistenza di Guglielmo Epifani di voler siglare, oltre all'accordo, anche il verbale aggiuntivo, quello con le modifiche negoziate, soprattutto dalla CGIL, con i nuovi padroni dell'Alitalia. Ecco, questo è una ricostruzione di un retroscena della svolta della CGIL, questo è il titolo di prima pagina della Repubblica, sì all'Alitalia. Il quotidiano La Repubblica si occupa anche, intanto affida la spalla di, diciamo, l'editoriale, l'analisi di prima pagina a Guido Rossi, il grande tonfo del capitalismo di mercato, e questo è tra le altre cose è uno stralcio dell'intervento di Guido Rossi al convegno di studi Nuovi Equilibri Mondiali che si tiene a Courmayeur oggi e domani, ma ci sono alcuni stralci dell'intervento di Rossi sulla crisi internazionale. Dice Rossi, parlare ancora del capitalismo di mercato, soprattutto dopo gli interventi del Tesoro americano a salvataggio dei vari istituti finanziari, a iniziare da Fannie Mae e Freddie Mac, sembra riferirsi a un relitto storico o a un oggetto di antiquariato. Le azioni preferenziali emesse a favore del Tesoro e la possibilità con l'emissione di warrant di acquistare fino al 79,9% delle azioni ordinarie, nonché la sospensione del diritto di tutti gli azionisti a favore del commissario, si potrebbe dire, celiando la copertura di mercato, a un salvataggio pubblico in spregio. Ecco, quindi un'analisi molto severa di Guido Rossi a proposito di quello che è avvenuto e di quello che avverrà. Le vecchie formule risultano dunque superate. Nelle strutture dei mercati ormai azionisti e creditori, imbrigliati in innumerevoli e sovente opachi strumenti finanziari, stanno perdendo sempre più autonomia fino a confondersi. Il quotidiano La Repubblica poi si occupa di un caso, il caso scuola. È un caso che secondo me preoccuperà non poco gli alunni e le famiglie. Un'insufficienza e si sarà bocciati, scatta l'allarme per elementari e medie. Da quest'anno, scrive Mario Reggio sulla Repubblica, alle medie inferiori e alle elementari fioccheranno le bocciature. Basta che l'allievo prenda 5 in una materia per ripetere l'anno. A forza di parlare di 5 in condotta, maestro unico, Gambrule, educazione civica, al più è sfuggito un piccolo particolare: con il ritorno al voto in decimi, alle medie e alle elementari, in quest'ultimo caso il voto da 1 a 10 accompagnato da un giudizio analitico sul livello generale di maturazione dell'alunno, il rischio bocciatura è reale, lo dice a chiare lettere l'articolo 3 del decreto legge 137 approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 settembre scorso. Ecco, su questa questione bisogna dire che la Repubblica ha beccato un punto vitale che probabilmente farà molto discutere, ripeto, le famiglie, sia per le medie e soprattutto per le elementari, dove questa norma, questa introdotta, pare piuttosto severa e dura. La Repubblica dedica anche Vittorio Zucconi a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, Bush, Obama e McCain, vertice anticrisi, e definisce Vittorio Zucconi quello che sta avvenendo la Pearl Harbor della politica, cioè il caos politico americano, quello che si trascina tra il fallimento del bushismo e una stagione elettorale troppo lunga e che ha permesso la tragedia finanziaria, ci ha proposto l'inedito numero del candidato che scappa. Eh sì, questo si riferisce a McCain, che di fronte alla crisi ha detto no, bisogna rivedere il confronto con Obama, però America, il dibattito più incerto, Obama no al rinvio, gli elettori devono conoscere le nostre opinioni, e quindi è qui che Zucconi parla dell'ultima disfatta della politica americana. Un candidato che si chiama fuori dalla partita per due giorni e non vuole più dibattere l'avversario come se la democrazia fosse un incontro di basket. John McCain ha chiesto un time out per salvare la propria squadra da una sconfitta che il tabellone dei sondaggi comincia a lampeggiare. Questo sul quotidiano La Repubblica. La stampa dà un giudizio, almeno nei titoli, piuttosto invece netto di quello che è avvenuto con l'Italia, ed è Federico Geremica che scrive, almeno il suo pezzo viene titolato così: rivince Berlusconi. Il primo, Veltroni, dice: non mi assumo nessun merito, ma ho cercato di dare una mano a una vicenda gestita malissimo. L'altro, Berlusconi, manda a dire attraverso Cicchito: Veltroni non può cambiare le carte in tavola. Insomma, il ragionamento di Federico Geremica è che comunque la vittoria di nuovo di Berlusconi c'è stata. Prima ha puntato a far fallire l'operazione CAI, poi ha fatto marcia indietro quando ha capito che l'opinione pubblica era contro di lui. Questo ha detto Berlusconi di Veltroni. Così il duello avviato la primavera scorsa continua su chi ha vinto, su chi ha perso, su chi è responsabile e su chi non lo è, su chi esiste, su chi è inesistente, come il premier ebbe a dire proprio di Veltroni, salvo rettifica qualche giorno fa. Certo, la conclusione è inequivoca: all'Italia agli italiani, disse Berlusconi in campagna elettorale, e all'Italia agli italiani è. Ma i leader di CGIL e PD, in una partita che ha avuto più protagonisti, più posti in palio, hanno messo in campo un potere di interdizione del quale il governo sbaglierebbe per il futuro a non tenere quantomeno conto. Questo scrive il quotidiano La Stampa con Geremica. Matteotti fu ammazzato dalle BR, stupidario delle risposte a test post laurea. Beh, è abbastanza grave, perché capisco che dei giovani magari non sappiano chi ha ucciso Matteotti, ma che insomma ci siano stupidari di questo tipo, dei super laureati, lo sconcertante esito dei test d'accesso, un po' sbrigativamente uno direbbe che somari, ma bisogna capirli, poveretti, con l'Italia che si trovano. Se il ministro dell'istruzione va a fare l'esame da avvocato in Calabria, dove si passa di più, che sarà mai se un aspirante scienziato politico, ai test d'ammissione per le scienze internazionali all'università di Forlì, alla domanda chi uccide Giacomo Matteotti, risponde le BR. È appena caduto, Università di Bologna, e questo è davvero, insomma, un bello stupidario e anche un po' preoccupante, diciamo, per ciò che... Ora, il messaggero, come altri quotidiani, invece, scrive in prima pagina... Scuole costruite con i rifiuti tossici. Avete già sentito la notizia nei GR di Radio 24, scuole industriali altamente tossiche per 350.000 tonnellate riciclate come materiale da costruzione per edifici scolastici. È il quadro inquietante da disastro ambientale che emerge dall'operazione Black Mountains, condotta dalla Polizia di Stato: arsenico, zinco, piombo, indio, germanio e mercurio. C'è un vero e proprio campionario di veleni alla base del secondo sequestro preventivo di 18 aree dislocate tra i comuni di Crotone, Isola Caporezzuto e Cutro. 7 le persone iscritte nel registro degli indagati. Miracolo a Roma, questo è il Riformista. Vado velocemente a leggervi alcuni titoli e titoli di commenti di alcuni quotidiani. Accordo per l'Alitalia, la CGIL firma, Berlusconi e Veltroni si contendono in merito, ma a farlo è stato Letta. Ecco, anche qui Gianni Letta viene sul Riformista premiato come l'uomo chiave per quello che è avvenuto nell'accordo all'Italia. Il premier vince, ma stavolta Walter esiste. Stefano Cappellini firma questo commento sul Riformista. Silvio Berlusconi è stato un passo dal baratro. Se l'Italia fosse fallita, il danno d'immagine per il governo sarebbe stato enorme. Più che la lunga luna di miele con gli elettori a rischio, sarebbe stata la stessa possibilità dell'esecutivo di continuare a proporsi come interprete di un progetto per il paese. Perché il Cavaliere ha deliberatamente trasformato la vicenda all'Italia e quella della spazzatura a Napoli in due prove di attendibilità, ma le ha vinte. D'altro canto, dice ancora Stefano Cappellini, il Walter Veltroni non si può dire che sia stato inesistente, questa è la valutazione. E il mentre severissimi sono con Veltroni e con Epifani i due quotidiani, Il Giornale e Libero. Il Giornale titola All'Italia fuori dai guai, Veltroni fuori di sé, evitato il fallimento. Anche la CGIL firma, mentre Air France e Lufthansa fanno a gara per entrare nella cordata voluta da Berlusconi, ma il leader del PD, dopo aver ostacolato la trattativa, va in TV e tenta di attribuirsi il merito. Ho fatto tutto io. Lo scippo di Walter, questo è il titolo del direttore Mario Giordano. All'Italia resta in piedi, Veltroni cade nel ridicolo. La sintesi della giornata è tutta qui. Un'azienda fuori pericolo, un leader fuori di testa, una compagnia salvata e un compagno da salvare, un dramma economico che si chiude, un dramma personale che si apre, pesantissimo Mario Giordano, per dire che insomma non è affatto merito di Walter Veltroni se si è conclusa positivamente la vicenda all'Italia, come vedete, quindi una chiave di lettura molto molto più invece dura di quanto hanno fatto quotidiani tipo La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero e via dicendo. Il sedicente mediatore infatti viene fotografato in prima pagina del giornale. Anche il quotidiano Libero è duro, dice pagliacciata CGIL, Epifani firma in ginocchio, il segretario del sindacato dopo aver affondato la trattativa si pente e sigla l'intesa che aveva respinto una settimana fa. Oggi i piloti sciolgono le riserve. E qui ancora Vittorio Feltri che dice gli italiani non capiranno mai cosa sia accaduto, e non perché siano stupidi, ma perché è impossibile trovare un senso a ciò che senso non ha. La questione è fin troppo nota e immagino che i lettori siano stanchi di sentirsi raccontare in ogni salsa. Insomma, il senso dell'editoriale di Vittorio Feltri è che ci sia stata una pagliacciata della CGIL, che non sia l'accordo che si è firmato oggi è identico a quello che si poteva già firmare una settimana fa. Questa è l'idea del quotidiano Libero. Poi, prima di passare rapidamente alle questioni dell'economia e della finanza, io volevo leggervi invece il titolo del Manifesto, perché il Manifesto è carino, mette assieme due cose. Cayman Airlines, Cay è preso dalla nuova società che ha acquisito e acquisirà, insomma, diventerà azionista di maggioranza dell'Alitalia privatizzata, e Cayman perché Cayman, come voi sapete, Cayman, il Caimano è un titolo di un film di Nanni Moretti su Silvio Berlusconi. Cayman Airlines è molto divertente, via libera alla cordata italiana, la CGIL firma l'accordo quadro tenendo a Colonnino concessioni su precari, stipendi e contratto. Ma ora io volevo segnalarvi sempre sul Manifesto che è una cosa singolare, diciamo, perché il Manifesto intervista Gian Antonio Stella, autore della Casta, sui privilegi di alcuni quotidiani e il taglio di altri, tra cui il Manifesto, parla Gian Antonio Stella, Corriere della Sera, bisognava tagliare i privilegi, invece colpiscono i piccoli giornali come il Manifesto. Questo sul Manifesto, appunto, inconsueto che venga intervistato un giornalista. Ora rapidamente all'economia. Sole 24 Ore, primo sì al salvataggio USA, e c'è un intervento di Innocenzo Cipolletta, Made in Italy più forte della crisi finanziaria, tra i risvolti della crisi finanziaria internazionale in atto uno riguarda in particolare l'industria italiana, si tratta della caduta dei redditi del ceto affluente, le immagini del fallimento della Lehman Brothers con i banchieri sui marciapiedi di Londra a New York che portano via la svelta delle loro cose hanno reso evidente un fenomeno con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi, ossia la caduta del reddito per un'ampia fascia di persone che detengono nei rispettivi paesi una posizione medio-alta. Ecco, questo ci annuncia Cipolletta in questo intervento sul Sole 24 Ore. Poi ancora i due settimanali in edicola, ambedue aprono su Panorama, quanta pensione è andata in fumo con il crack finanziario, i fondi in cui sono finite le liquidazioni perdono anche il 15% e per categorie come avvocati, medici, giornalisti, agenti di commercio e altri c'è il rischio di dover pagare e lavorare di più. Aiuto, qui si brucia la pensione, c'è Edmondo Ro che scrive questo, firma questo servizio di copertina di Panorama. L'impatto della crisi, fondi di categoria che perdono più del 15%, polizze imbottite di titoli Lehman e persino gli istituti di previdenza e i professionisti fanno i conti con il rischio dei mercati. La caduta delle borse è la prima prova del fuoco per gli integrativi, dove i 4-5 milioni di italiani hanno messo il TFR, quindi insomma lancia un allarme che speriamo sia un po' esagerato questo di Panorama, perché è chiaro che se si toccano i fondi pensione si tocca la previdenza e come dire il futuro della gente. E ancora l'Espresso, crack and go, Naomi Klein, Joseph Stiglitz, il crollo delle borse non basta decretare la fine della finanza speculativa, ecco cosa potrà accadere ora, intanto i risparmiatori italiani tremano per i loro investimenti, questo si legge sul quotidiano, scusate, sul settimanale l'Espresso. A Wall Street, questo è il titolo interno, vincono i furbetti, salvataggio delle borse ha riempito le tasche degli speculatori sulla pelle dei contribuenti e è tutto il sistema della finanza USA che va riformato, parla appunto il premio Nobel Joseph Stiglitz. Wall Street è morta, titola Wall Street Journal in un editoriale destinato a fare storia, ma una vecchia volpe della borsa come Nariman Bhavesh, capo economista della Global Insight, dice che sono solo chiacchiere. Tutto questo clamore farà spazio agli hedge fund e ai private equity. E a proposito di hedge fund, voglio ricordarvi che anche sul Sole 24 Ore Mario Platero scrive: hedge fund sotto accusa e la SEC attacca le locuste dopo l'FBI che investiga su possibili reati contabili nella crisi finanziaria USA, si muove ora anche la SEC, l'autority di vigilanza della borsa americana, ha annunciato di aver avviato indagini su almeno 24 hedge fund. E mentre proseguono le inchieste del procuratore federale Andrew Cuomo, anche il procuratore distrettuale di Manhattan, Robert Morgenthau, è pronto a scendere in campo con una propria indagine indipendente. I famosi hedge fund, i fondi a rischio, sono sotto accusa. E ancora un'intervista a Sacconi di Alberto Orioli, ora serve il sì sui contratti, i documenti sono quelli del 18 settembre, abbiamo fornito chiarimenti, apprezzo il nuovo clima e il nuovo senso di responsabilità, ora va trasferito sul tavolo per la firma della contrattazione. Maurizio Sacconi, ministro del welfare, spera nel sì dei piloti e rilancia, il governo prepara nuove misure su ammortizzatori sociali, detassazione dei salari, incentivante ed enti bilaterali. E con questa segnalazione al Sole 24 Ore io vi saluto, vi do appuntamento al microfono aperto come di consueto, potrete telefonare all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, potrete farlo anche prima delle 8:30 per prenotarvi. A dopo dunque.